diciamo che su questo tema tutte le forze della sinistra hanno maturato una convergenza nel senso di cambiare il testo uscito dalla Giunta, e abbiamo in questo senso presentato oltre 30 emendamenti che intendono portare modifiche significative al testo, a partire dal raggiungimento di un reale riduzione del consumo di suolo, a partire dal fatto che riteniamo che il pubblico debba avere un ruolo centrale nella definizione delle politiche urbanistiche e nella gestione del territorio, e infine nel incentivare una reale ed efficace rigenerazione e riqualificazione urbana. Quindi noi pensiamo che il comparto edilizio debba essere indirizzato nel rigenerare e riqualificare anziché nel costruire su territorio vergine. Se non sbaglio, voi avete pubblicato un libro proprio sui problemi di questa legge urbanistica, ma diciamo stringendo, quali sono i punti che voi più contestate? Allora, il libro è il prodotto del lavoro di tanti tecnici, urbanisti, esperti del settore che ci hanno poi aiutato anche nella stesura tecnica degli emendamenti, perché parliamo di una legge complessa, articolata e molto specifica. I punti che contestiamo sono quelli che richiamavo prima, nel senso che la Giunta ha enunciato una serie di obiettivi che sono peraltro anche condivisibili nel titolo, diciamo, però poi non vengono, secondo noi, raggiunti e soddisfatti dalla legge. Quindi i titoli che citavo prima, gli aspetti che citavo prima, vengono ripresi dai vari capitoli della legge: la rigenerazione, la riduzione del consumo di suolo, eccetera, però poi lo svolgimento di quei titoli in realtà non è al momento per noi soddisfacente. Il fatto poi che da Confindustria a LegaCoop, passando per l'Associazione dei Costruttori Italiani, tutti ci chiedano di approvare il testo di legge senza portare modifiche, è un ulteriore elemento che conferma la bontà del nostro lavoro, perché loro dicono, le forze economiche che ho citato, dicono: noi la trattativa, il punto di equilibrio, come dicono, l'abbiamo già trovato con la Giunta, a questo punto non vogliamo ulteriori perdite di tempo, l'assemblea approvi la legge e si va avanti. Come dire, riflettendo una concezione un po' strana delle assemblee elettive e più in generale della democrazia, perché chi deve avere a cuore e chi per definizione deve far prevalere l'interesse generale non sono appunto le associazioni di categoria, ma sono le persone elette dai cittadini, quindi le assemblee elettive. Noi non rinunceremo mai al nostro ruolo di legislatori e soprattutto di persone che devono trovare il rispetto dell'interesse generale. Lei ha parlato di una unità delle sinistre in consiglio regionale, ma diciamo il PD in teoria sarebbe di sinistra e sta proponendo questa legge. Qual è la risposta del PD ai vostri emendamenti e alle vostre critiche? Ma adesso sul fatto che il PD sia di sinistra, possiamo dire, aprirebbe un tema e un dibattito che non è questo, non abbiamo il tempo di esaminare. Di sicuro a sinistra del Partito Democratico, Sinistra Italiana e MDP, che diciamo dal punto di vista formale sono ancora in maggioranza, e l'altra Emilia Romagna, che invece è all'opposizione in consiglio regionale, abbiamo registrato un'unità di intenti proprio sul merito, perché alla fine, come dico spesso, l'unità a sinistra va praticata e non predicata, e quando ci si concentra sui contenuti la cosa diventa più semplice. Ovviamente in questi mesi che ci separano dal voto, che probabilmente arriverà entro la fine dell'anno, del voto sulla legge, noi abbiamo in essere una trattativa, una discussione con il Partito Democratico, con il Presidente Bonaccini, con l'Assessore Donini, e vedremo l'esito di questa discussione. Noi siamo chiaramente in campo per cambiare la legge, vedremo se e come questo percorso andrà a finire. So che venerdì ci sarà la presentazione del disegno di legge e voi farete altri incontri sul tema? Ma adesso le presentazioni pubbliche che sta svolgendo l'assessore Donini sono opere meritorie, perché comunque coinvolgono la cittadinanza, ampliano il dibattito pubblico, però dal punto di vista istituzionale le sedi che contano ovviamente sono le commissioni nelle quali noi stiamo lavorando. Io sono uscito proprio adesso dalla Commissione Ambiente e Territorio a discutere proprio anche stamattina del testo della legge urbanistica e soprattutto il voto finale dell'Aula, quindi questi sono gli aspetti fondamentali che contano: il lavoro delle commissioni e il voto finale dell'Aula. E noi sia nelle commissioni sia nell'Aula porteremo avanti gli emendamenti che abbiamo presentato, probabilmente ne aggiungeremo degli altri, faremo sempre nel merito cercando di migliorare il testo, in alcuni casi anche significativamente modificarlo, e vedremo. Ripeto, ad oggi non sono in grado di dire come si concluderà questo percorso, così com'è di sicuro noi la legge non la voteremo.